avanti un passo delizia nel mio cuore. A 17 mi sono spartita, dai avanti un passo delizia del mio cuore. La vela, la vela, la vela alla finestra, le tutta, in cipriata. La dis, la dis, la dis che le malata, per non, per non, per non mangiar polenta. Bisogna, bisogna, bisogna aver pazienza. La sala, la sala, la sala.